Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: partiremo dalla vicenda del Sulcis, o meglio l'Alcoa che ha chiuso. È una situazione molto molto difficile dal punto di vista dell'occupazione, l'area del Sulcis, quindi che riguarda sia l'Alcoa che la parte mineraria, è l'area più depressa della Sardegna probabilmente in quanto a disoccupazione. Perché ne parleremo oggi? Perché sono arrivati intorno a mezzogiorno il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, il sottosegretario Claudio De Vincenti e il ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca, circa un'ora di ritardo rispetto al programma ufficiale. Sono andati a visitare la grande miniera di Serbariu a Carbonia e poi incontri istituzionali con il presidente della regione Cappellacci. Un protocollo di sviluppo per il Sulcis, promessi, se abbiamo ben capito, 500 milioni di euro. Forte la protesta però a Carbonia, fuori dalla grande miniera, dove è in corso la riunione dove, tra i rappresentanti del governo e quelli del Sulcis Iglesiente. Ancora scontri appunto con le forze dell'ordine e anche polemica per questi soldi che arrivano, secondo alcuni, devo dire, con un ragionamento non privo di un suo senso, arrivano quando ormai i buoi sono scappati, nel senso che la COA ha chiuso e sul fronte minerario per ora c'è una sospensione. E il rischio è, ma ne parleremo, che possano essere aiuti dati un po' a pioggia, cioè non si capisce onestamente, ma adesso ne parleremo, il piano industriale che il governo ha in mente per il Sulcis e per l'Iglesiente in generale. Ancora la Grecia, oggi un'asta di titoli di Stato greci, è andata bene l'asta, lo dico subito, e ha collocato 4 miliardi di euro di debito la Grecia, debito a breve termine, praticamente a 13 settimane, con un tasso del 4,2% e del 2,76% e del 3,95% invece i bot greci a un mese. Ha collocato, dicevo appunto, nel complesso 4 miliardi di euro, deve trovare nuovi soldi giovedì la Grecia per coprire tutta la scadenza del suo debito. Ne parleremo anche perché in Grecia funziona un po' così, non è che vengano collocati sul mercato, sostanzialmente i titoli di Stato greci sono comprati dalle banche greche che poi li danno in garanzia alla Banca Centrale Europea in cambio di altri prestiti. Per cui non esiste un collocamento tra privati, ecco perché i tassi comunque sono così bassi, nonostante lo spread greco viaggi ampiamente sopra il 1000%, i 1000 punti. Il problema è che Francoforte ha detto che non comprerà, non terrà in garanzia un ammontare illimitato di debito greco, arriverà al massimo a 12 miliardi e questo potrebbe essere un problema. Nel frattempo in Germania inizia a scricchiolare l'economia tedesca. Fu buon profeta o facile profeta Mario Draghi 2 settimane fa, dicendo: attenzione, anche la Germania mostra dei segni di rallentamento dell'attività economica, rischia la recessione, cioè, se non si risolve il problema della crescita in Europa verrà coinvolta anche la Germania. Molto più modestamente lo diciamo da un anno e mezzo che è impensabile che l'Europa, diciamo, mediterranea si fermi senza che la Germania ne abbia un contraccolpo. E oggi la fiducia degli investitori tedeschi in Germania è scesa a novembre a meno 15,7 ed è un nuovo segnale che la crisi sta avendo un impatto nella maggiore economia dell'area euro, e tra l'altro in un'economia che va a elezioni a marzo, per cui il problema per Angela Merkel c'è e c'è tutto. Poi parleremo nella seconda parte del programma, dicevo, della vicenda greca, perché ci interessa capire quali saranno i prossimi passaggi, e avremo nostro ospite per il tema dei consumi, il numero uno di A2A. A2A è la municipalizzata più grossa, insomma è l'unione tra Milano e Brescia. La settimana scorsa ha diffuso i conti sarà l'occasione per ragionare anche della presenza del pubblico nelle municipalizzate, ma anche per capire da chi misura i consumi energetici, gas, elettricità, se veramente anche nei consumi energetici si veda la frenata che l'Istat registra in maniera più aggregata. Il dato della settimana scorsa sulla produzione industriale italiana era di quasi un 5% di calo a settembre, meno 4,8% per la precisione, rispetto a settembre del 2011. Ultimo numero è quello per i vostri sms, 349-238-6666, come sempre c'è anche la pagina Facebook per chi volesse scriverci via computer. Rapidamente le altre notizie in breve. La borsa più 1,31%, Milano è tra le migliori, vanno molto bene le banche oggi, effetto anche Grecia ed effetto anche spread, lo spread italiano è sceso, non di tantissimo però è sceso sotto i 470 punti oggi, dicevo la borsa va bene, più 1,30 Milano, Parigi più 0,60, Francoforte più 0,14, Londra più 0,07 e non poteva che essere così a Londra. L'America più 0,57%, euro a quota 1,2714, i titoli diciamo delle banche molto forte, Intesa San Paolo più 5,30 come il Monte dei Paschi e Unicredito guadagna il 4,40, la Popolare di Milano il 4,11, il Banco Popolare il 3,5%, Ubibanca più 3%, Popolare Emilia Romagna più 2,80, bene tra i non bancari anche Parmalat più 3%, Atlantia più 2,60, Luxottica più 2,20%. Chi perde oggi? Energia, ma il lusso, nel caso specifico Tod's, non sono piaciuti i conti diffusi, infatti meno 6% il titolo, Pirelli meno 3%, Enel Green Power meno 2,40, Fiat Industrial meno 2%, quindi camion e trattori, A2A, e ne parleremo appunto con Tarantini, anche del valore del titolo, meno 1,60%, Salvatore Ferragamo meno 0,70%. Petrolio a 84,80 dollari al barile a New York. Venendo all'Italia, inflazione in frenata ad ottobre, al 2,6% la crescita dei prezzi al consumo nel mese di ottobre, da un 3,2% di settembre. Il rallentamento risente anche del calo dei prezzi del carburante e poi è in qualche modo falsato dal fatto che a ottobre del 2011 ci fu un'impennata dell'inflazione per via dell'aumento dell'IVA, ecco perché oggi risulta un'inflazione in calo. Chiedo scusa agli ascoltatori, ho detto 470, è 370 lo spread italiano, è sotto i 370 punti lo spread italiano. Chiedo venia, giustamente me lo fate notare. Andiamo avanti con l'Italia e appunto al di là dell'inflazione, l'emendamento per gli esodati che la Commissione Bilancio della Camera ha approvato oggi salvaguarda oltre 10.000 persone. Gli oneri cumulativi fino al 2020 ammontano a 554 milioni che si sommano ai 9 miliardi e 2 necessari alla salvaguardia della precedente platea di 120.000 esodati e il governo porrà martedì prossimo 3 fiducie sulla legge di stabilità. Nelle amministrazioni centrali le eccedenze di personale non dirigente, insomma nella pubblica amministrazione, le persone in più, secondo quanto dice il ministro alla funzione pubblica Filippo Patroni Griffi, l'ho detto ai sindacati, sono 4.028 gli esuberi che non tenendo conto dei dirigenti. E tra l'altro ne parleremo, ripeto, con il numero uno di A2A, però che la crisi, insomma, i consumi siano bassi, bassissimi, lo si capisce anche da altre da altri indicatori. I volumi postali, per esempio, si sono ridotti del 12% nella prima parte dell'anno. Lo ha detto il numero uno delle Poste italiane, Massimo Sarmi, sostenendo che a questo punto con questi volumi le Poste si stanno impegnando per mantenere i livelli di occupazione, ma la struttura dovrà ridimensionarsi. Da febbraio ci sono stati 390 interventi, anzi 100 chiusure su 14.000 uffici postali in Italia. Adesso veniamo al primo tema, il Sulcis, l'igresiente sull'orlo del baratro, però non abbiamo oggi notizie in più sullo sperpero di denaro pubblico, però vorrei registrare due elementi. Da un lato la giunta Polverini, insomma sono trascorsi 48 giorni dalle dimissioni di Renata Polverini, ma ancora non c'è la data ufficiale, precisa, per le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, nonostante il governo l'abbia sollecitata. Io vorrei capire una cosa, ma governatrice, ex governatrice, ma quanto ci vuole a fissare una data per le elezioni, al di là del conteggio di quello che servirebbe per poi aver diritto alla pensione? Ma insomma, quanto ci vuole? 48 giorni? Oggi Renata Polverini dice: in questa settimana, d'accordo con il governo, si decide. Entro venerdì si saprà la data del voto. Sono pronta ad andare al voto a gennaio, ma ho dato disponibilità al governo anche di far coincidere la data nelle tre regioni nelle quali si vota. Per cui ancora non abbiamo chiaro, abbiamo chiaro solo che venerdì dovremmo avere la data. Nel frattempo è stato fissato per venerdì, sempre per venerdì, l'interrogatorio di garanzia di Vincenzo Maruccio, che è l'ex capogruppo dell'Italia dei Valori. C'è chi ha fatto la battuta sugli sms Italia dei Valori immobiliari. Comunque, l'ex capogruppo dell'Italia dei Valori alla Regione Lazio, arrestato per peculato. Nell'ordinanza di custodia, il GIP, il giudice per le indagini preliminari, Costantini, parla di sistematica spoliazione dai conti dell'Italia dei Valori e di attività predatoria di risorse pubbliche, indirizzate fra l'altro al video poker, dove Maruccio avrebbe perso 100.000 euro. E comunque Maruccio avrebbe distratto, cioè si sarebbe fregato soldi del partito per circa 1 milione di euro. E devo dire che ieri, anche nel grande show delle primarie del PD, il tema del finanziamento dei partiti è stato toccato. C'è un punto molto chiaro, però, insomma, se non ricordo male lo ricordava Tabacci: con la legge del rimborso elettorale che ha aggirato il referendum, i partiti vengono rimborsati anche quando non sostengono spese elettorali. Lo abbiamo spiegato molto bene: i 5 euro a votante vengono dati non solo quando ci sono le elezioni, ma anche quando non ci sono elezioni. Ecco perché poi si arriva a un rimborso di 500 milioni per effettivamente spesi 150 milioni. Te credo che poi crei l'acquolina alla bocca a Fiorito, Maruccio and company. Comunque, stiamo allegri, perché così bisogna stare. Il governo è andato adesso con il ministro Passera e Barca a visitare l'iglesiente, il Sulcis, promettendo anche soldi. Non ho, ma adesso cercheremo di avere maggiori delucidazioni, non ho ben capito quale sia però un piano industriale del governo per quest'area, ma noi vogliamo stare allegri. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. Ape! We'll be right back. Sono arrivati a mezzogiorno in punto il ministro dello sviluppo economico Corrado Passera, il sottosegretario Claudio De Vincenti e il ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca. Un'ora di ritardo rispetto al programma nella grande miniera di Serbario a Carbonia per una serie di incontri istituzionali. L'accoglienza non è stata delle migliori come era immaginabile, è montata la protesta infatti fuori dalla grande miniera dove poi c'è stato l'incontro tra i rappresentanti del governo e quello del Sulcis Iglisiente. Questa è l'accoglienza, che non erano certo applausi, sono scoppiate anche alcune bombe carta e lanciate verso le forze dell'ordine, lanciati palloncini con vernice rosa. Paolo Bricco è uno degli inviati del Sole 24 Ore, buonasera Paolo. Sì, buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori. Dove sei in questo momento? In questo momento mi trovo vicino alla situazione, la situazione è estremamente complessa, l'elemento interessante però è una valutazione sul contenuto del protocollo. Ecco, arriviamo a questo, perché insomma sappiamo che l'Alcoa ha chiuso, sì. Lo stabilimento di Porto Vesme è fermo, si è chiuso il ciclo dell'alluminio a Porto Vesme, iniziato 40 anni fa, sì. E lì lavoravano 500 dipendenti più 300 nell'indotto, che in un'area con una disoccupazione altissima è veramente un danno ulteriore, sì. E poi invece c'è il problema delle miniere. Il governo in realtà teoricamente non è arrivato a mani vuote, passiamo in termini. Ha impacchettato e con uno strumento diciamo anche giuridico amministrativo nuovo, quindi innovativo, quindi una cosa buona diciamo, una serie di soldi che già preesistevano, sono circa 500 milioni di euro nazionali e regionali che sono appunto finalizzati a curare questa crisi, quindi se il metodo è positivo, perché non è il solito finanziamento a pioggia sulle cose più disparate, il problema però è quello del metodo, perché a quanto risulta non c'è una scelta di politica economica chiara, cioè a dire sì, con questi soldi si vuole tamponare la situazione della siderurgia, ma si dice anche che bisogna fare il turismo di qualità, allo stesso tempo si dice che bisogna fare anche la ricerca sul carbone, ma puntare anche sulla filiera agroalimentare. Ecco, dal punto di vista del metodo e delle politiche ci sembra il carbone biologico ancora non lo conosco, però... esattamente, il problema è proprio questo, nel senso che si poteva fare probabilmente una scelta o nel senso o nell'altro, sarebbe stata discutibile dire che bisognava ancora continuare con la vocazione industriale o voltare pagina, questa scelta purtroppo all'italiana non è stata fatta. Allora, i soldi quanti sono? Circa 500 milioni di euro. Ecco. Ma che verranno distribuiti come? Scusa, non ho capito. Esiste un protocollo, diciamo, regionale e nazionale che sarà finalizzato a una serie di progetti infrastrutturali e progetti di ricerca. Sono soldi che arrivano, diciamo, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Coesione Territoriale e quindi per una volta, come dire, l'azione di governo è uniforme. Ma se è uniforme dal punto di vista diciamo del metodo, e quindi ci saranno interventi straordinari, bandi, possibilità di partecipare a gare, il problema è che non c'è una focalizzazione precisa e quindi vuol dire che ancora una volta si rischia di disperdere l'azione dei soldi pubblici. Quindi quello che tu stai dicendo è che non si capisce, come un po' fanno in Francia, che almeno dicono vabbè, lì vorremmo sviluppare un polo di qualcosa, non devo dire che questo dirigismo francese non sempre ha funzionato, però a meno capire se si vuole puntare sul carbone e l'alluminio o sul turismo o magari su turisti che vengono a visitare il carbone e l'alluminio, non lo so, ma che è, come dire, è l'opzione dell'Alsazia Lorena e della Ruhr, dove ci sono intere zone deindustrializzate, dove si è creato un volano di turismo e archeologia industriale e che poi è stata la base per la terziarizzazione di quei sistemi economici. Qui il problema è proprio questo, nel senso che alla fine non si è fatta una scelta netta. Il ciclo dell'alluminio è radicalmente fuori dal mercato, quello almeno sardo rispetto ai mercati mondiali. Il tema era proprio quello, cosa facciamo? Mettiamo mezzo miliardo di euro per fare un upgrade? trading, per creare nuove infrastrutture, per fare sì che le trattative che alcuni dicono in corso e altri negano tra l'Alcoa e chissà quali fondi di private equity possano in qualche maniera arrivare al dunque, lo facciamo o non la facciamo? E questa volta, come sempre, vabbè, non è stato fatto. Ecco, ma quando dovrebbero arrivare questi soldi, scusami? Nell'arco dei prossimi 4 anni. Il lasso temporale, cioè, quello che ma spalmati in 4 anni o tutti in una volta fra 4? No, spalmati in 3 o 4 anni. Sono fondi già preesistenti che sono stati semplicemente impacchettati in strumenti giuridico-normativi, diciamo, meno laschi di un tempo. Vabbè, resto un po' così perplesso perché non ho capito l'utilizzo di questi soldi, ma evidentemente sono io un po' duro oggi. No, lo dico Massimo... rispetto, però non, veramente non capisco. Comunque, ti ringrazio, Paolo Bricco, perché insomma, noi teniamo aggiornata la situazione, perché chiaramente quant'è la disoccupazione giovanile in generale nel Sulcis Iglesiente, Paolo? Ormai viaggiamo sopra il 40%. Quella generale o quella giovanile? No, quella giovanile è abbondantemente sopra il 40%, quella generale avrà il 20 e il 25%. Cioè il doppio, due volte e mezzo la media italiana, sì, in un caso che nell'altro. No, ricordiamo che è la seconda provincia con i tassi di disoccupazione più alti in Italia, ecco, se la contende credo con la provincia di Messina, se non sbaglio, ecco, comunque è una situazione veramente da rivolta sociale. E poi questi dati macroeconomici di struttura si vedono bene oggi, perché poi oggi cosa c'è stato? C'è stato una specie di primo impazzimento del tessuto sociale con le botte da orbi che si sono verificate. Sì, ecco, speriamo che non capiti più, però è chiaro che insomma, va bene che ci siano 500 milioni, sarebbe ancora meglio, mettiamola così, che attorno a un tavolo si decidesse cosa fare, quali progetti possono essere sviluppati nel Sulcis Iglesiente, anche perché potrebbe diventare un laboratorio, lo dico, per futuri interventi, cioè usare un metodo Sulcis Iglesiente potrebbe essere, da questo punto di vista, un attimo che mi fanno dei segni regia, no... Potrebbe essere, da questo punto di vista, il laboratorio e il modo per sviluppare altre iniziative analoghe, perché oggi parliamo anche dell'IVA. Ferranti ha detto che se crolla il sistema IVA ci sono effetti in tutto il paese, in altre aree di crisi, visto che dobbiamo traghettare il paese fino al 2013, cioè la seconda metà, quando ci sarà un po' di ripresa. Però Sebastiano, se posso dire, la situazione è molto diversa, nel senso che l'IVA è vitale per il sistema industriale italiano, per gli approvvigionamenti del nostro manifatturiero, in particolare il manifatturiero del centro-nord. E il caso invece del Sulcis è un problema di transizione di un sistema manifatturiero che oggi non è più sostenibile verso qualche cosa d'altro. Si poteva fare una scelta di politica industriale coraggiosa, di politica economica coraggiosa, dicendo: signori, forse quella storia è finita, oppure allo stesso tempo si poteva dire: quella storia ha un valore anche per il futuro, e quindi mettiamo o togliamo tutti i soldi o li mettiamo tutti su quello, e quindi o facciamo la Sardegna della manifattura e dell'industria, o facciamo la Sardegna degli ombrelloni e del pecorino romano e del pecorino sardo. Sì, anche dell'agricoltura biologica, anche insomma, dell'agricoltura biologica. Ad alto valore aggiunto. Questo ancora non si è stato fatto, esatto. Vabbè, peccato, perché i tecnici dovrebbero avere maggiore libertà nel ragionare rispetto ai politici, che sappiamo poi sono sempre giustamente anche molto sensibili all'elettorato e al collegio locale, invece il tecnico potrebbe ragionare con maggior respiro. Ma tant'è, grazie a Paolo Bricco. Arrivederci, buona serata e buon lavoro. Grazie a te, Paolo. Meteo, pubblicità e poi la borsa. 349-238-6666 per i vostri sms. 17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa. C'è chi mi sta scrivendo: ma come, lei dice che la ripresa dovrebbe arrivare da metà del 2013? Lei crede ancora alle favole? No, io leggo e riporto quello che hanno detto il Fondo Monetario, la Commissione Europea, l'OCSE e ultima l'Istat, e cioè che l'Italia chiuderà anche il 2013 in recessione, meno 0,5%, però da metà dell'anno dovrebbe arrivare un po' di ripresa, per cui partiremo ancora più deboli dello 0,5, ci sarà un po' di ripresa a metà dell'anno e la media farà meno 0,5. Sapete lo scetticismo che ho verso questa ripresa sempre annunciata e sempre poi rimandata, o che arriva in misura meno intensa del previsto, ma sono le previsioni diffuse 2 settimane fa dai principali organismi internazionali. Adesso la borsa. Eleonora Micheli, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Dicevamo bene oggi tutte le banche per via dello spread della Grecia, c'è poco lì da commentare, più 5,20 in Intesa San Paolo, più 5% in Monte dei Paschi, più 4,60 Popolare di Milano, più 4,40 Unicredit, più 3,5 il Banco Popolare, più 3% Ubibanca, come anche la Popolare Emilia Romagna, e finisco con Mediobanca più 2%. Tods perde però il 6,30%, qui ci sono i conti trimestrali. Esatto, i conti in verità sono stati buoni, la società ancora una volta è cresciuta, d'altra parte diciamo sono stati giudicati deludenti dagli analisti semplicemente perché lievemente inferiori alle attese. Il fatturato ad esempio conseguito dalla società è stato di 749,9 milioni, gli analisti si attendevano un 752 milioni, poca cosa. Comunque la verità è che da inizio anno le azioni di Tod's, così come le azioni di gran parte delle aziende della moda, vantano una buona performance. Quelle di Tod's, ad esempio, sono in rialzo di circa il 40% dai valori di inizio anno e quindi è stato un po' un pretesto per portare a casa i guadagni. Tra chi delle banche, abbiamo detto, insomma, non c'è molto da discutere, l'asta greca è andata bene, lo spread italiano è calato e dopo un'incertezza iniziale ci sono stati grandi acquisti. Tra l'altro Unicredit oggi ha migliorato i suoi conti, l'utile è migliorato a 335 milioni di euro e ha fatto sapere Unicredit di avere in portafoglio, in pancia, quasi 93 miliardi di titoli di Stato, di cui 42 miliardi e mezzo italiani. Ecco perché poi le banche italiane, quando lo spread aumenta, si muovono male, o se cala si muovono bene, perché hanno tantissimi miliardi di BOT e BTP italiani in pancia. Oltre a Mediaset invece, torniamo a chi è andato male, Pirelli oggi meno 2,80%, Enel Green Power meno 2,20% e Fiat meno 2%. Pirelli ed Enel Green Power. Sì, Pirelli, ieri i vertici della società hanno diffuso i conti nei primi 9 mesi che sono buoni, d'altra parte hanno rivisto al ribasso le previsioni di fatturato per fine anno e anche la posizione finanziaria, ovvero i debiti, saranno un po' peggiori rispetto alle stime che erano state diffuse in precedenza. Anche in questo caso è stato già un pretesto per portare a casa i guadagni, visto che le azioni comunque hanno registrato un'ottima performance, complice anche la guerra per il controllo dell'azienda che si sta consumando tra Tronchetti Provera da una parte e la famiglia Malacalza dall'altra. Ancora conti deludenti per Campari, se ho ben visto, che poi però ha chiuso con un più 0,26%. Sì, questa mattina i titoli andavano abbastanza male, ieri erano andati male dopo i conti trimestrali che sono stati giudicati deludenti dal mercato, d'altra parte proprio sul finale si sono ripresi e hanno segnato un più 0,26%. E ancora invece Telecom Italia, insomma, molto a fermento, come era immaginabile, in borsa ieri sul possibile ingresso dell'egiziano Sawiris nell'azionariato. Oggi però più 0,28. I riflettori comunque del mercato rimangono accesi su Telecom Italia. Questa mattina le azioni erano deboli, si è preso profitto dopo il balzo in avanti registrato ieri dai titoli, d'altra parte poi hanno chiuso sul finale più 0,28%, ci si interroga su cosa succederà, probabilmente o forse non entrerà Sawiris. Di sicuro oggi ha parlato l'amministratore delegato dell'azienda Marco Patuano e ha detto che la società non ha bisogno di essere ricapitalizzata. È inoltre detto che va avanti l'analisi sull'eventuale progetto di scorporo della rete, a differenza di quanto riportato da alcuni organi di stampa che sostengono che se entrasse Sawiris probabilmente non si procederebbe allo scorporo della rete. È tutto da vedere, ovviamente il mercato di sicuro tiene alta la guardia. Giustamente sì, alcuni ascoltatori dicono non è che le banche abbiano comprato i titoli di Stato liberamente, è vero che c'è stato anche un invito a comprarli, insomma i soldi che la Banca Centrale Europea ha dato alle banche italiane, mi riferisco ai 170 miliardi che sono arrivati alle banche italiane, dei 500 che complessivamente Mario Draghi ha messo a disposizione, di 1000 miliardi in due tranche, 500 più 500 che Mario Draghi ha dato in prestito, dei 170 miliardi arrivati alle banche italiane, parte è stata usata per fare, per ricomprarsi debito, c'erano infatti molte obbligazioni bancarie in giro, e parte è stata usata per comprare invece debito italiano, quindi BOT e BTP. Oggi anche Intesa San Paolo ha diffuso i conti trimestrali, utile a 414 milioni, in calo del 12% quasi rispetto ai 470 milioni del trimestre precedente. Pesano le tasse, soprattutto maggiori oneri fiscali, migliori e peggiori in assoluto. Cape Listed più 13,14 e poi Seat, pagine gialle sulle risparmie più 6,40, i peggiori Sintesi meno 65%, Arena meno 28%, e basta, però. E.ON meno 13,23%. Grazie, Eleonora Michele, Radio Colle, sulle 24 ore. Noi continueremo invece a parlare di trimestrali, è uscita la settimana scorsa quella di A2A, è occasione per parlare col Presidente, ma anche sviluppi futuri, possibile integrazione con altre municipalizzate. A2A unisce infatti Milano e Brescia per quello che riguarda gas e elettricità, c'è l'ipotesi con Iren, e poi capire anche se anche chi fornisce gas e elettricità vede una frenata nei consumi, nell'attività economica. 349-238-6666 per i vostri sms. Dicevamo dei conti di A2A, ma anche della fotografia dei consumi del paese che arriva da un gruppo del genere. Allora parliamo appunto, cerchiamo di capire prospettive e anche fotografia con chi ci può fornire indicazioni su entrambi gli aspetti. E come dicevamo, settimane di trimestrali, ma anche settimane in cui escono dati cosiddetti congiunturali su come sta andando il ciclo economico. La scorsa settimana ci siamo occupati della produzione industriale, di nuovo in calo forte a settembre, e vorremmo affrontare il tema sia di come vanno alcune grosse società quotate in borsa, ma anche di come va il ciclo cosiddetto economico, con chi ne ha un indicatore abbastanza diretto, anche perché fornisce energia elettrica. A2A è un gruppo energetico, per chi non lo conoscesse, quotato a Piazza Affari, capitalizza 1,2 miliardi di euro, e è il risultato della fusione tra il Comune di Brescia, le municipalizzate del Comune di Brescia e il Comune di Milano, entrambe hanno una quota del 27,5%. Lo scorso maggio, con un'operazione con Electricité de France, ha ceduto la sua quota in Edison, che a questo punto, come abbiamo raccontato, è completamente francese, e è rilevato però il 50% di Edipower, che sono le centrali elettriche privatizzate dall'Enel, di cui già possedeva il 30%, a 1.400.000 clienti nel gas e 1.100.000 utenti nel settore elettrico, la capacità installata di 6 gigawatt e mezzo. Siamo in collegamento con il presidente del consiglio di gestione di A2A, Graziano Tarantini. Buonasera innanzitutto, presidente. Buonasera, buonasera. Il piano che avete presentato prevede investimenti, se ho ben capito, taglio del debito e anche un utile prima delle tasse per il 2015. Si può raccontarci nel dettaglio le vostre previsioni? Allora, noi abbiamo approvato un piano industriale che prevede nel prossimo triennio 2012-2015 1,2 miliardi di euro di investimenti. Raggiungeremo un EBITDA, un margine operativo industriale di 1,3 miliardi e il debito netto in contrazione di 1,4 miliardi di euro, da 4,6 a 3,2. Il rapporto che è importante fra la posizione finanziaria netta e l'EBITDA passerà da 4,4 a 2,5, dunque sicuramente, voglio dire, ci siamo dati degli obiettivi molto molto importanti. Voglio solo ricordare che quest'anno comunque, al netto del consolidamento di Edipower, che come accennava lei è derivante dall'operazione con EDF, noi avevamo già ridotto di 524 milioni il nostro debito a cui dopo si è aggiunto il consolidamento di Edipower per 1 miliardo e siamo tornati alla cifra di 4.580 miliardi, che è quello che ovviamente andrà in riduzione fino a portarle a 3,2 miliardi. Ecco, questo voglio dire per dare un po' l'idea che oltre al piano industriale, anche nei dati dal 30 di settembre abbiamo avuto già degli effetti positivi. Sì, e questo si vedeva appunto anche nelle vostre prospettive. Tra l'altro, il debito è salito sopra i 4 miliardi dopo l'operazione con Edipower. Mi scusi, Presidente Tarantini, secondo lei perché il titolo è rimasto invece così piatto in borsa? Guarda, il titolo è rimasto piatto perché purtroppo noi siamo, come giustamente viene detto, essendo un'azienda che ha una parte rilevante dei propri ricavi nel settore energetico, evidentemente scontiamo anche l'effetto della crisi più di altri. Siamo ciclici, però nella presentazione del piano avvenuta giovedì, il consenso va verso un assestamento positivo e abbiamo un consenso intorno a 0,47. Io sono fiducioso che nei prossimi mesi sicuramente il titolo respirerà, anche se, ripeto, una buona parte dipenderà dall'andamento dell'economia. La parte che dobbiamo fare noi l'abbiamo fatta. A questo proposito, lei ricordava come e quanto il titolo sia ciclico, cioè segue la congiuntura economica. Sì. Noi delle volte utilizziamo anche e soprattutto i consumi di elettricità, non lo facciamo noi, lo fa l'Istat, lo fanno tutti i centri studi, per capire come sta andando la congiuntura economica. Ci sono indicatori infatti aggregati come quelli dell'Istat, ma ci sono anche indicatori molto più empirici, diciamo così, e lo puoi vedere, addirittura esiste, come ogni tanto ricordiamo, il lipstick index, l'indice dell'utilizzo di Rossetto per capire se c'è la crisi o no. È chiaro che vedere come vanno i consumi elettrici e energetici ti dà un polso ancora più forte di come sta andando la congiuntura, perché meno producono le imprese o meno anche soldi hanno le famiglie, meno elettricità tendono a consumare. I consumi sono deboli, ma il calo più forte sia sul fronte famiglie o sul fronte imprese? Entrambi. Noi registriamo, voglio dire, un calo generalizzato, anche se, ripeto, sul nostro mercato, dove quello più retail, noi sostanzialmente l'effetto non è rilevante, in quanto è un problema che riguarda l'acquirente unico, dunque siamo in qualche modo nel mercato tutelato. Certamente risentiamo in generale dell'andamento, voglio dire, di un minore consumo, a fronte, ripeto, di un problema che abbiamo in Italia, dove c'è stato un incremento notevolissimo della capacità installata con una forte penetrazione delle rinnovabili ed un calo che ormai della domanda, che ha toccato il suo minimo nel 2009, ha avuto un po' di ripresa 2010-2011, ma voglio dire, ma veramente leggera, ecco. Adesso ci fermiamo per un minuto perché c'è, anzi per, ci fermiamo tra un minuto perché c'è GR, poi riprendiamo con lei. Una notizia però la do in diretta perché è appena uscita, non riguarda voi chiaramente, ma riguarda il gruppo Enel. L'utile netto, sono usciti i dati della trimestrale, nei primi 9 mesi è sceso a 2,8 miliardi, i ricavi hanno fatto più 7,7%. E ancora l'indebitamento nei primi 9 mesi, l'indebitamento finanziario netto di Enel ammonta a 46 miliardi e mezzo, in crescita del 4%, anche qui spiega il gruppo, dovuto essenzialmente al pagamento dei dividendi e alle imposte maggiori, inclusa la Robin Hood tax. Noi invece continuiamo a parlare con lei, Presidente Tarantini, dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms, e poi sarà la volta anche delle obbligazioni, del titolo di Stato greci oggi collocati sul mercato, ma non si sono dissipati i timori. Il GR 18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e purtroppo siamo stati facili profeti, aprendo questo programma con la visita dei ministri Passera, Barca, del sottosegretario De Vincenti nel Sulcis Iglesiente, al di là del della rimodulazione di questi fondi, 500 milioni, però non si capisce bene per che cosa, cioè quale sia il piano industriale. Purtroppo gli scontri stanno aumentando. A questo punto la situazione, leggo l'ANSA assieme a voi, la situazione all'esterno dell'area della miniera, dove c'era un incontro tra i ministri e anche la delegazione sindacale, la miniera di Serbariu a Carbonia, c'erano incontri anche col governatore della regione Ugo Cappellacci, ricordiamo la situazione della disoccupazione sul CIS è al 40%, quella giovanile è al 25%, quella cifra doppia rispetto alla media nazionale. Dicevo, la situazione ormai è da guerriglia urbana, sull'asfalto sassi e pietre di ogni dimensione, resti di petardi e fumogeni, la strada di accesso è bloccata da una montagna di materiali, divani, porte, ruote di camion, scaldabagni, persino una vettura incendiata, transenne divelte e anche pezzi di mobilio. La polizia e i carabinieri in tenuta antisommossa stanno ancora fronteggiando i manifestanti con l'obiettivo di disperdere nuove cariche. E questo purtroppo dispiace doverlo raccontare così, ma dispiace soprattutto dover raccontare le cifre della disoccupazione in questo paese. Detto ciò, noi invece torniamo con l'intervista al nostro ospite, il presidente di A2A, Graziano Tarantini. Voi operate soprattutto tra Brescia e Milano. Tarantini, la domanda che le avevo fatto prima del GR, operate nella dorsale più importante del paese dal punto di vista produttivo, una delle più importanti. Ecco, dopo i dati che lì è stata diffusa la settimana scorsa sull'andamento anche dei consumi voi e della produzione industriale, voi vedete un corrispettivo nella domanda di gas e elettricità? Cioè sta calando più per le imprese o per le famiglie? Anche dalle famiglie, anche dalle famiglie. Quindi le famiglie consumano meno gas e elettricità? Consuma di meno perché c'è un minore utilizzo di elettrodomestici, c'è una maggiore attenzione, ecco, si guarda molto, infatti nel nostro piano prevediamo molto in linea anche con quello che è il piano energetico nazionale ultimamente recentemente approvato, cominciamo un po' a parlare di efficienza energetica e non più solo di consumi. E dunque voglio dire, noi evidentemente sul panorama complessivo è chiaro che noi abbiamo un portafoglio diciamo molto molto completo, perché abbiamo il teleriscaldamento per esempio che crea efficienza da questo punto di vista. Dunque è chiaro che c'è un oggi l'equilibrio va maggiormente sostenuto, però è anche una politica di investimenti importanti per i prossimi anni per arrivare al 2015 di riequilibrare ancora di più il nostro portafoglio fra quello che sono, voglio dire, i settori che sono legati all'energia. Ecco, ecco, lei citavo anch'io il comune di Milano e di Brescia, perché sono appunto i due azionisti di riferimento, assieme hanno una quota del 27,5% a testa. Però voi avete nel piano industriale ipotizzato circa 100 milioni all'anno di dividendi. Negli anni d'oro si arrivava a 300 milioni in un solo esercizio. Ecco, come hanno accolto la notizia i vostri due azionisti di riferimento, Brescia e Milano? Guarda, l'hanno accolta positivamente, perché questo è già nella precedente mandato, io ero presidente della sorveglianza, avevamo dato una chiara indicazione di un payout non superiore al 60% al netto delle operazioni straordinarie. Credo che nonostante le difficoltà che attraversano i comuni, hanno ben compreso che fare un piano industriale dove non intaccheremo il tema anche occupazionale, non viene messo in discussione, evidentemente c'è un grande atto di coraggio, perché io credo che i due comuni, contrariamente ad altri investitori, guardino sì al dividendo e all'andamento del titolo, ma anche a quello che è il bilancio sociale complessivo. Io credo che di questo debbano veramente essere soddisfatti. Ecco, nel vostro futuro c'è anche un'ipotetica fusione con IREN. IREN è la società che raggruppa le municipalizzate, quindi elettricità e gas di Torino, Genova, Parma e Reggio Emilia. Guardi, adesso noi il piano l'abbiamo diviso in due parti. Abbiamo fatto 2015 perché oggi il mercato, oltre i tre anni, parliamo di tempi già troppo lontani, e l'abbiamo definito il periodo del consolidamento, e poniamo le premesse perché dopo ci sia una grande crescita dell'azienda, tant'è che gli effetti di 1,2 miliardi di investimenti, una parte produrrà i propri effetti sul 2016-2017. Basta pensare al tema del riscaldamento Milano, è chiaro che la prima parte per noi vuol dire consolidamento. Noi oggi dobbiamo guardare a questo e dobbiamo essere efficienti su tutte e quattro le filiere in cui siamo impegnati. Io credo se ci saranno possibilità, non ci chiudiamo nessuna prospettiva, ma ci debbano essere in qualche modo possibilità di creare valore sulle singole ipotesi di filiera, dunque deve esserci delle grandi operazioni industriali. Presidente, io non ho capito, però vi interesserebbe, chiaramente per creare valore, non per distruggere, una fusione con Iran o no? Guardo, secondo me fare le fusioni fra due società oggi non ha senso. Trovare punti di sinergia sulle singole filiere, okay. Se lì le economie di scala riescono a creare valore, bene. Solo un dato importante, noi avevamo circa degli 8 miliardi all'incirca di capitale investito, noi avevamo 3 miliardi e mezzo di partecipazioni di tipo finanziario. Noi abbiamo fatto in questi ultimi 3 anni, questa parte si è ridotta a 200 milioni, dunque tutto ciò che erano partecipazioni finanziarie sono diventati asset industriali. Avendo fatto un'operazione industriale, oggi dobbiamo seguire questo tipo di logica, dunque anche con Iren, con Era, con Acea, con tutto il mondo delle multi-utility, cioè sono anche tante più piccole, se ci sono ipotesi aggregative che siano... possono essere consigliate agli azionisti perché portano veramente valore in termini sia di dividendo che di consolidamento delle società, sono tutte cose che giustamente un amministratore deve vagliare. Ma quindi su Iran voi siete più interessati, no mi scusi se insisto, a eventuali accordi di partnership per esempio sulla filiera del gas o dell'elettricità anche per gli acquisti, che non a fusione societaria, ho capito bene? Ma fusione societaria secondo me, guardi, l'operazione di Power quando l'abbiamo chiusa abbiamo inserito... No, mi dica però, scusi, mi dica se ho capito bene, intanto poi mi spiego il concetto, cioè, voi non siete interessati a una fusione societaria, casomai accordi di partnership per arrivare immagino anche a maggiori efficienze. No, certo, accordi, ripeto, io credo che nemmeno Iren o altre società siano interessate ormai o da operazioni fra virgolette a freddo, dove si prendono le scatole sopra e si mettono insieme. Secondo me si possono valutare operazioni sulle singole filiere per vedere se ci possono essere possibilità di sinergie, non sovrapposizioni, soprattutto ci siano ipotesi di valorizzazione vera attraverso integrazioni, perché abbiamo territori diversi coperti in maniera diversa. Ecco, da questo punto di vista secondo me noi non ci chiudiamo, ecco, il nostro piano industriale non si chiude rispetto a queste prospettive. Evidentemente noi oggi partiamo e dobbiamo dire agli azionisti, agli stakeholders e al mercato come pensiamo in una situazione stand alone di aggredire il debito e soprattutto di garantire profittabilità, perché il debito è una variabile ma non può essere preso in assoluto. Il debito va parametrato con il dato della capacità di creare margine industriale. Io le indicavo prima che il nostro obiettivo è passare da 4.4 a 2.3, dunque un obiettivo veramente molto ambizioso. Ecco, questo io credo che interessi al mercato e chi compra il titolo in borsa di A2A. Un'ultima domanda per concludere, visto che poi tema anche del dibattito politico e delle discussioni che abbiamo visto anche ieri, insomma, se io gli chiedessi se lei è d'accordo sul fatto che vada ridotto il potere dei comuni anche nelle municipalizzate, secondo lei è come se chiedessi al tacchino se è d'accordo sul Natale? No, io guardi, questo lo dico con onestà proprio intellettuale, per un mio convincimento anche personale, culturale, ecco, anche da studioso. Io dico che l'azionista non ha, voglio dire, l'azionista pubblico-privato può essere buono e un cattivo azionista. Se l'azionista distribuisce riserve è un cattivo azionista. Dunque, voglio dire, bisogna giudicarlo dai comportamenti. Chiaramente ci sono dei problemi di scelta della tipologia dell'investitore che evidentemente ragiona sull'azienda in termini completamente diversi. Un azionista pubblico è garante sicuramente di un piano come questo, perché evidentemente poteva essere più diciamo coraggioso sul piano dell'efficientamento, toccando anche il tema del personale. Avere un azionista pubblico da questo punto di vista non ti richiede, voglio dire, obiettivi di brevissimo termine. Questo non vuol dire cadere nel buonismo, perché se le società va male si fa male, punto. Però ci sono evidentemente politiche di medio e lungo termine, di breve termine, che si possono effettuare a seconda se sia un azionista in grado di assicurarti il sostegno in un periodo diverso. Dunque non è neutro l'azionista, Questo sia per quanto riguarda pubblico privato, anche all'interno del segmento privato cambiano. Io la ringrazio, grazie al Presidente del Consiglio di Gestione di A2A, Graziano Tarantini. Saluto, buonasera. E adesso c'è il traffico, chiedo scusa per il ritardo, poi la Grecia e anche lo sblocco comunque dei fondi, lo ricordavamo in apertura del programma per l'Emilia, si è arrivati infatti lo sblocco dei fondi per l'Emilia, solo tre paesi hanno votato contro, Gran Bretagna, Svezia e Finlandia, e quindi sbloccato attraverso uno stralcio il tema degli aiuti all'Emilia Romagna, Gran Bretagna, Svezia e Finlandia, non ho ben capito a questo punto dopo i vari sviluppi perché abbiano votato contro, comunque ne parliamo dopo il traffico. Di nuovo in diretta, nel frattempo vi aggiorno anche sul Sulcis, nuovi scontri all'esterno dell'area della miniera di Serbariu e blocco delle strade, praticamente i ministri non sono potuti ripartire con le auto, sono venuti due elicotteri a prendere i ministri Passera e Barca e il sottosegretario De Vincenti, un elicottero della finanza e l'altro dei carabinieri. Non si riusciva infatti a sbloccare gli scontri fuori. Ora io dico due cose: da un lato è chiaro che uno può essere un ministro tecnico, ma quando poi i problemi sono politici si scontra e si accorge anche di quelle che sono le tensioni in quel territorio. Abbiamo criticato da un lato questi 500 milioni per un piano che non si capisce che cosa vuole fare il governo dell'area del Sulcis, visto che è un governo di tecnici, avrà tutti gli strumenti anche per capire tecnicamente come sviluppare lì il turismo o il carbone, l'alluminio o l'industria agroalimentare magari di qualità. Dall'altro però ricordiamo anche che questo governo è arrivato a novembre dell'anno scorso, cioè un anno compiuto, e non è che in precedenza invece ci si fosse occupati così tanto con l'Alcoa, si è cercato di mettere qualche pezza, ma non diamo, voglio dire, tutta la colpa al governo attuale. Certo che voglio dire, bisogna capire che un governo di tecnici sì, ma un governo è sempre politico perché è appoggiato da una maggioranza politica, e quindi poi le risposte che arrivano o le reazioni che arrivano dal territorio sono di carattere politico, non tecnico. No, lo dico perché delle volte c'è un pochino di spocchia nei ministri e nel governo come atteggiamento nei confronti del paese. Detto questo, parliamo adesso di Grecia, dove il governo è politico e ha problemi tecnici. E con la nostra ballata dell'euro ritorna Vittorio D'Arold. Buonasera Vittorio. Buonasera a voi. Dunque, oggi la Grecia è riuscita a collocare tutti e 4 i miliardi di euro di titoli di Stato. In realtà è facile per la Grecia perché questi bot non li compra nessuno se non le banche greche stesse, che poi li danno alla Banca Centrale Europea come garanzia, in cambio ottengono prestiti. Fatto così sono capace anch'io. Il problema è che la Banca Centrale Europea, se ben ricordo, ha fissato un tetto di 12 miliardi massimo che può accogliere come come prestito, come garanzia, scusatemi,